Invece peso quando passo l'aspirapolvere a casa, la musica. Adesso un po' con la musica perché mi si è rotta, adesso me la sono tirata nuova perché domani il telefono non me lo guarda di la lampo, perché ha fatto come quando ingrippi con la moto, ha fatto e poi si aspetta. Ho preso, guardato, controllato, pulito il filtro, tutto quanto, provi mai se sono andato a rimettere la moto, accenderla, non accendeva più, ho detto esco, tirami di luce. No, questo ha paura, addirittura, infatti, qualsiasi strumento di attacchi, quando è stato il trattamento, o la voglia di trattare, o il fondo, ha detto, io mi stavo in giro, ho detto, ho mangiato lo sguardo, e mi io sono un po' per la chiama, ma anche la qui, se no, a tenerlo, ha fatto paura. Oh, vedi, è un cane che è stato ammicciato tipo selvatico, fuori casa, se non sono cani da lasciare fuori quelli lì, sono cani d'appartamento, no? I muri siamo la rubretta, sono cani delicati. Io sono molto piccolo, io ti dico la verità, se avete avuto uno spazio perché in appartamento c'era grande cosa per me. A me c'è stato questo, in tutta la vita mi è piaciuto molto questo. E se avete avuto giardino e lo spazio casa mi ha perché mi sono cambiato più piccolo, non mi insegna più e poi nel mio impegnativo comunque tu riesci comunque tre volte al giorno a tutte le ore quando lui è dato giù alla luce la mezzanotte ti sento di caldo e si accendono la luce e tu la paesa la persona forse gli dice beh noi siamo e mi adesso io devo portare alle 8 lo porto e lui c'ha gli orari alle 8 in punto cominciamo a mugnare ti credo, però te la faccio vedere cosa fa il mio cane alle 9 e mezza. Allora te lo porto io sempre. Lui, durante tutto il giorno, da me, non si vuole, non sta vicina. Alle 9 e mezza adesso mi ero vicino a me. Tu devi vedere questo pezzo lo cane, infatti al mio visito, se si vuole vado di lui. Alle 9 e mezza, in punta, molla tutti, mi dice a me mi guarda, si mette vicino e mi guarda. E poi deve toccare la vicino durante il giorno, mai a me. Lui alle 9 e mezza, in punto, lui mi sta guardando, lui mi dice, guarda, fa sì, allora ti devo guardare, io. No, io gli ho dato gli orari, lo porto alle 8, poi lo porto all'una e poi lo porto la sera alle 8. A volte la mattina se dormo un po' di più, a volte dorme anche lui con me e quindi ci svegliamo magari alle 10:30 così, scendiamo anche alle 11, dipende. Se è addormentato, che non mugugnese, sta addormentato sino a tardi a volte e a volte ho bisogno anche io di dormire, quindi mi riposo anche io, ne approfitto. Di rientrare perché e beh fu pescando state guardando con l'esposizione del trattamento si può attraversare perché si sono vicini comunque già quando ha cominciato il tempo brutto è più già sto guardando sono con gli amici miei giù perché un paio abitano lì ma l'altro giorno mi stava dicendo che ci può diventare la pesca nera. Tutto il giorno non ne ha levato niente, due pescherie, ma tutto il giorno e notte, non ne ha mai levato da là. Infatti, adesso, prima aveva entrato il cammino. sono state le giornate, non ci vado più, non ci tutto, sono andato su cantina. E dai, con tutta questa qualità, guardate, mi dice che avevo un spaghetti, una mattina, avevo 50 grammi, ma c'è più gusto. No, io quando le prendo così piccole le libero, le libero sempre. Minimo deve essere come pezzatura 500 grammi, così va bene. Se no, se sono più piccole le libero, se sono lattine piccoline le libero. E niente, ma sai cos'è? Io quando andavo lì mi mettevo in un punto e pescavo sempre, e praticamente a fianco a quel muricciolo che c'è, come tu scendi le scale, perché lì c'è roccia e sabbia, e lì ho pescato dei bei pesci, ho preso anche una bella orata, che sono scesi tutti quelli che stavano passeggiando a vederla. Infatti ho detto fatemi spazio, perché già una volta me l'hanno fatta scappare. Così una volta prendo questa orata, se ne andata a 3 kg e mezzo, 4 kg, l'ho comprata, l'ho messa per orata, arrivano questi qua, oh com'è bella, pa, spaccata la rete. Noi abbiamo un po' prima, e l'altra volta che si può, qualche volta un po' più lento. Vabbè già, ma io ho ritirato tutto, sta pronto, e mi ho casa. Ok, ci sentiamo, rientro in questa storia, qualche sera te lo rientrato, non ci sono trovato tutto. Ehi, dai. Non c'è problema, siamo qua la sera, entriamo sempre dopo le 6:30, così trovi sempre gente. E sino alle 8 c'è gente, poi a volte qualcuno riprende anche dopo mangiato, alle 8 vanno tutti a mangiare e poi riprendono magari dopo, capito? Ok, già, ci sentiamo. Ciao, buona carica, non ci sentiamo. Eia, sono ritornato. Ma tu hai mangiato, io no. Ciao a tu. Capa, vai a mangiare, cosa vuoi ti dica? No, lei adesso fra poco esco con paese, prima qui mangio. E poi mi guardo un po' di TV, qua ci rientro. Andare. E allora, a tu, mangia due anni. Guarda, ho mangiato i tortellini con la panna che ci sono avanzati, mica li butto via. E poi ho mangiato cosa? Ho mangiato, come si dice? Un paio di sofficini. Andava. E la notte è anche troppo pesante. Io ho fatto i tracci di pesce spada a pranzo, che c'era Marco, la pasta al forno, tracci di pesce spada e poi abbiamo fatto il contorno di puri di patate. Buono. E mi sono avanzati due pezzi di pesce spada, adesso mica ti dirà un po' sopra Marco, va a mettere quello lunghino. E me li mangio stasera, capito? Tanto stasera devo stare leggero, non devo mangiare molto. E il pesce va bene, il pesce è di rosso. Va bene, sì, cavolo. Taglio mangia sempre il gallo, invece non li mangia. Al gallo mi piace, e poi lo sai cosa mi piace? I gamberoni. Cazzo, ci va male con i gamberoni. Cosa fai? Gli risbucci e cosa fai? Allora, gli risbucci li do sporfatti, a forma solo li do, dai. Scegli a due rucane in doglio, le gambarone di piazzere. Ma non li do cassare, non li do uno, due al massimo, proprio andando male, non è che non li faccio il pasto, li faccio assaggiare. Sì. Anche perché ci metto il peperoncino, allora non li fa tanto bene il peperoncino, capito? Le gambarone ci metto anche il peperoncino, li faccio scongelare, li metto a bagno in olio, peperoncino, aglio, prezzemolo, un po' di limone sopra e poi li pongo a cucinare. Quando stanno cucinando, come vedi che sono pronti, li ricavi e dopo ti rimani. Ma perché non li metti in coso già? Ma non li metti in forno? No, io li faccio integrare. Li faccio col vino bianco, integrare, aglio, prezzemolo, peperoncino, una spruzzatina di limone e sopra il vino bianco. No, io li faccio in forno. E pomodorini di quelli. Pomodorini di quelli piccoli, dai, la ciliegina. Così è praticamente alla catalana. No, io li faccio in forno. voglio prezzemolo e non è messo peperoncino perché non mi piacciono queste cose. Voglio prezzemolo e limone, a pezzi di limone sopra e un goccetto di olio per farli andare, capito? No, no, io li faccio il segame, ti assicuro che quando rimane che già tutti i diritti. Lo so, ma no, ma a me peperoncino proprio non mi va. È una questione di gusti, a me il peperoncino piace, gli dà il buon sapore. Certo, non va messo oltre quello che ci va, va dosato bene il peperoncino, perché se ne metti troppo, mangi roba piccante e basta, ti fa di chifa a mangiare la luce. Deve sentirsi appena appena. Sì. Mamma mia, roba piccante, oh, lascia perdere. Avanti Bruno. Chiuso la Bruno. Sta guidando sicuramente. No, era arrivato a casa, ha detto che smontava l'antenna e c'è la magnetica come me. Che la smontava tutto, ma anche io con il cielo e poi se l'hanno a casa. La boomerang si deve mettere, almeno con quella esce un po'. Lo so, ma sono antenne, diciamo, sì, escono, quelle della neve escono bene, se si è preso quella grande della neve esce bene. Però, se c'è preso da 50 anni, la prima le vende, di bici adesso le ha finite, non le ha più ordinate, così. Andiamo, andiamo. Andiamo e andiamo, dai, ci siamo la faccia. Andiamo, capo. Oggi l'ho conosciuto di persona, dove dai? Sì, mascherato, ma l'hai conosciuto. Senza mascherina in chiesa prima. Poi se n'è andato correndo, dove si è reso conto di essere senza mascherina dentro la dura mascherina. Io lo conosco a mascherato. Davvero? Io già lo conosco già. Davvero? Ehi, avanti. Brecco. Avanti il break. Ciao Antonio, buonasera. Gianni e Luca. Ciao, ci vediamo, buonasera a te. Gaffa, ciao Gianni. Avanti Luca. Luca e Fumigo. Vai, bombo. Allora. Come ti andava? Mi stavo mettendo il LED nello smicker, che non si voleva più. Abbiamo messo uno bianco ghiaccio e uno rosso. Ma cosa l'hai buttato insieme? Cosa? Ma si illumina tutti e due insieme? Allora, tutti e due insieme si illumina, adesso ti mando la foto, guarda che bello che uscito. Ia. Ma in quale apparato l'hai messo? In quello modificato. Che fa? Cambio. Caparoglio, guarda già, ti ho mandato la foto, guarda lo smicker. Capa, pure a me l'hai mandata. Ehi, anche a te l'ho mandata, ehi. Non è male, bello illuminato. Davvero? Già è bello, però io gli avrei messo il blu, mi piacciono di più blu, però è bello, già è bello, sì. Già, lo sai perché li ho messi in rossi? Allora, l'ho messo in rosso perché c'ho la mascherina Red Bull, vedi che ci sono i due fuori che sono rossi. E poi se lo mettevo blu, dovevo mettere blu anche il visualizzatore del canale che non ce l'avevo, e diventava brutto solo. Ma non è che vola questa cosa, no, Massimilia. È fatto bene, Massimilia, è fatto bene. Quindi l'ho fatto tutto rosso. Lo smicker l'ho messo uno rosso e uno ghiaccio. Poi l'avevo illuminato insieme a quello di Gigi. Gigi ce l'ha uguale e l'ha fatto blu. Cappa, ma te stavo dicendo Massimiliano, ma non è che vola il apparecchio dal tavolo, no? Ma dal mio? Ti mette le ali. E può darsi, io la reso due, boh, mi dati un boh, va, basta, se voglio modificare, basta, non voglio più. Ne ha avuto tu, io ne ho avuto due, ne ho avuto e basta, ne ho avuto due. No, io ne ho avuto un bel, tutti, a tu, tutti, e ne ho girato un bel. E vai a capagata, come ti guardi a... Ma basta, non è una cosa che non guardi, mi fate troppo ridere, mi fate. Caparroggio, adesso mi è arrivato il 2009, il tornado, come sono così. Cappa, lui Italia ne hai girato di quegli apparecchi. Ma da 48 ci ho messo un conto legato a Maggia Uglio. Ma non ne voglio manco più valore, manco in cartolina. 48 è bello. Penso che sia la miglior radio che è modificata, una tra le migliori. Ho di tutto l'hanno fatta su 48, di tutto e di più. Sempre una bella modulazione c'è un po', però rimane con la M, questi 120 cavalli e blu, a casa non si può usare, secondo i cambi non si può trattare, specialmente quando c'è propagazione forte, anche se siano 45, ascolti il categorie del 47 e 48, non fa, a casa non fa del 48. Non capito perché sono, non capisco perché l'hanno fatto in questa maniera. Non lo so, non usarci. Avanti, Lucio. Vabbè, parigi. Ti sei fuggito, Gianni. Capo a Rogero, Luca, c'era anche Luca, normale. No, già ci sono, ma sto andando via, dai. Mi saluto, devo portare il cane, che stanno stavo chiedendo cosa voleva e se possiamo pugnare, così si può fare a Joshua. Ci sentiamo, ragazzi, statemi bene, continuate, così ho tranquilli. Ciao, ciao. Papà, ciao già. A te stavi chiedendo cosa vuole, a cane. E allora? Vai, vai, a tu. Ciao Massimiliano, dai, sono a prendere il tram, ci sentiamo dopo, ci siete, sono alla pluce, e ci è Gheber. Gheber, mi dammi Gheber. Ciao Luca, ciao, ci sentiamo, ciao ciao. Ehi, ciao Lu, ci sentiamo. E non lo so, un cane di Gianni ha fatto così, io, Massimiliano, che domani, au, voi sì. Quando musicheggia per anche uno che non rimbiate. Ah, così è? Eia. Vabbè. Non ti baedo. Pure vedi se potete ne comprendermi. Si fanno capire anche loro. Ciao Massimiliano, che ero in ascolto, sto andando a portare il cane. Ciao, Cla. Eia, eia. Ma io mi stavo finendo con la radio. E ho messo un po' di led nello smicco. Era solo quello rosso, gli ero aggiunto uno bianco ghiaccio, penso almeno si vede. Ehi, come lo senti a Massimiliano, Anto? Anto? Ehi, dimmi, dimmi. Ho detto, come lo senti a Massimiliano? Una cannonata lo intengo. Anche io, va bene. Bella chiara, forte, amplificata. Hai chiesto qualche altro controllo, Massimiliano? No, no, era tutto l'assima spento, claro. Sono entrato adesso, sono entrato in questo momento. Mi stavo finendo questa radio, mi ho finito questa radio per ammazzare una mezz'oretta al tempo, mi stavo rimettendo un ordine un po' qui, però ero tutta la sera spento, non ho già finito nulla. Va bene, già stia andando bene, 9:20 abbondante, radio Super 5 alla grande, dai, un po' più forte di quella di Antonio, dai. Va bene, ci sentiamo, ciao, vado a portare il cane, vi stavo ascoltando ma non riprendo, ciao ciao. Ciao ciao Cla, ci sentiamo. Avanti Anto. Ciao Cla, ci sentiamo. Anto, quanto ce l'hai il Mickey? Bascio, Massimiliano, la so qui che so con sempre a maggior parte troppo alta. No, dimmi a quanto è, a uno. Sì, un pelino, è a uno, ma proprio a uno, piccolino, anche di meno. Ma allora basta un altro pelino, va bene. E allora non viene più radio in occhi. Cioè. Hola, va bene? Sì, ma c'è che adesso non c'è il radio, la voglia che va bene, meglio è. Capa, così va bene, sì. Così va benissimo. I picchi ci salgono un po' di meno, però va bene lo stesso. Ma i picchi salgono di meno, ma la radio è più bella, insomma, almeno a tutti un bicchio, bisogna che anche burraccia va, ma a tutti i bimbi. Scusa, è inutile avere una radio più forte che fa schifo, preferisco averla una meno forte che è bella da sentire. Ah no, cosa ne pensi tu? Yeah. Ah yeah, io capiamo uno che si chiamava Adriano Yeah, un po' è gabbo, veda, quando era la tidotte, si puniva la notte, yeah, ti faccio di pacco, dotto. Guarda, ti ho mandato un audio, ascoltati come stai arrivando, non sei mai uscito usci. E ciao, lì. No, a Massimiliano sto dicendo, a te già te l'ho già mandato. No, a me non me l'hai mai mandato. Sì, va bene, ecco. Gaffra, gaffra, positivo, dai, dai. Fai il passaggio al tuo. È 1, 2, 3, prova radio. Guarda a vedere come mi senti. Con l'orecchio al tuo. Io sono. Ha detto che ti sento con le orecchie, cazzo, io sono. Ma cosa ne so, cosa con tutto quanto rincoglionito ultimamente. Ma tu, hai che ci basta un fiaco di fala, boh, eh? Se ti l'ha giudito! Non ho neanche guardato il tempo, come per domani, Scappa! Te l'ho detto, te l'ha detto, ma fiaco di zintura, beh! Ti ho mandato un messaggio, al tuo. Aspetta un attimo che lo guardo. Cosa, tu? Un attimino che lo guardo. Appa. Allora, fammi una bella doccia, cuciniamo, poi andiamo a dormire, al tuo. La voglio un po' presto, la mattina. Capa, è robusta la voce, comunque. Se ti uso con le zelle, tu mi trovi a dormire alla radio, Capa. Però i picchi ci hanno un po' di meno, ma non li faccio nulla. Ah, vabbè, ho stesso volante, anche a tutti i bini. Capa. Ora la cipolla. Buonasera. Ehi, buonasera, Tino. Ehi, ciao, T. Abbiamo, cosa stai utilizzando, capa? Ehi, lasci intendi. Va bene, come modulazione. No, secondo me potresti parlare anche un pochino più spostato. Mi sembri troppo vicino al microfono. Guarda un po', mi sono allontanato. Ha cambiato totalmente. Ero vicino perché ero allungato, che stavo facendo questa cosa qua dove c'è l'orario, e quindi ce l'avevo troppo vicino, vai, ok. Vabbè, picchi positivi, da 9.20 quasi a 9.30, benissimo. Ciao Antonio. Uè, buonasera Tino, il più povero sono io con un 87. Ehi, vabbè, tu sei con picchi positivi a 9.20. Cappa, già va bene già. Sì, però poco fa ho sentito un'insaturazione. No, perché ho toccato appena, e cosa ho toccato, non mi sono gabbizzato. Però adesso già va bene, dai. Perfetto, va bene, Anto, va bene, va bene. Vabbè, Massimiliano, non si riparte, tornai la fuccio, ragazzi. No, già siamo ripartiti, Tino. Siamo ripartiti tutta la settimana scorsa, o qualche giorno, un paio di settimane fa, là. Sono 7 giornate in tutto, questa mese abbiamo lavorato, e cosa fai? Di prueba, cosa mi va? Però, magari si è messo acqua, però non ci hanno chiamato, quindi vuol dire che bisogna salire. No, io ormai sono libero, devo fare documentazione, quindi ho la sorpresa libera, anche perché ho visto la giornata che non era una delle migliori. Poi siamo lì a Lottomontanica noi, per carità, sto fango, Senti, io me lo sapevo, non lo so, pretendi, ma se la prigione prende i fusori, beh, da asciutto, cose, da buio, da fratella, mercoledì ha fatto un po' di acqua di nuovo, e vabbè, cosa ci vuoi fare, pazienza. Ma mi sa che poi da lunedì ha messo tempo buono, giusto? Sì, non ho guardato anche perché, mi interessava domani a me. Poi del resto andare va lo stesso, anche se piove, poi vediamo cosa ci vuol dire. Il bel tempo si aspetta in campagna, se piove ce ne andiamo, se non piove lavoriamo. E noi facciamo così lo stesso. Noi come regola dovremmo salire tutti i giorni, aspettare le 2 ore in cantiere, però visto le giornate che sta facendo, ci stanno arrivando, diciamo, di una qua, guarda, meno spreco di furgoni, gasoli e ballovari, tutto qua. Voi avevate trovato quella situazione là che mi avevo richiesto? No, al momento no, però mi serve qualche uno, insomma, tipo qualche manovrare, qualche uno che sappia già fare quel tipo di lavori anche. Capito. Io sto sempre chiamando, però tutti quelli che ho chiesto stavano lavorando, poi ho chiesto un altro ragazzo, mi aveva chiamato un paio di mesi fa, che stava cercando lavoro disperatamente, e poi invece si è partito in Corsica, perché qua non ha trovato niente, dopo una settimana mi hai chiamato tu, l'ho richiamato e poi ormai sono bravo, cosa vuoi fare? Si troverà, dai, ma soltanto dobbiamo fare sei mesi di lavoro di fibra, magari in paese si troverà qualche qualche volontario. Vediamo, dai. Mattorino non serve, non vuoi? Mattorino? No. Non è quello, ce l'avrei proprio pronto, disponibile, anche bravo. No, posso chiedere, ma... vabbè, lo sai, è giusto qualche pozzetto da sistemare, non è che posare tubi o quant'altro. Sei bravo sulla posa, magari. Bravo a fare tutto. Tutto, vabbè, lui fa... cavolo, fa cazzo, fa anche piazzale, quindi conosce il ballo varie, le segue tutte, va. Già si sa quando ci fanno fognature, tubazioni, ci vuole sempre uno che ti segua le quote e qualche cosa. Vediamo, se è già chiaro, ma non mi dubbi. Antonio, riprendi, se no sei troppo in bianco. Ehi, a KK, da, cavolo, stavo ascoltando qua e non ho capito bene il discorso, non ho capito bene. Vabbè, ragazzi. Un discorso lavorativo più che altro. Ah sì sì, KK, ok. Sono passato sì l'altro giorno, non dire, sfuggita lì. Dove state lavorando voi là? Perché c'era un casino di traffico, ho deviato lì e ho visto un po' di cose in movimento. Va bene, va bene. Ma lì non. Cioè, non ci siamo solo noi. Lì c'è, diciamo la verità, che il lavoro vero e proprio l'ha preso Iano, non so se lo conosci, Iacomelli. Sì, sì, Giulio. Sì, Giulio, un po' di lavoretti adatti al mio principale, però secondo me è andato di scarpe. Scusate un attimo. Capa, eppure vorrei mandare un messaggio a Coso, a Massimiliano, vorrei chiedergli una cosa. Mandami questo messaggio, Antonio, siamo noi due, buh. Mica te l'ho mandato, mi. Ombre, ombre, andare. Sono rientrato, scusate, avevo una bassa. Ehi, a chi è? Avanti. Stavo mandando un messaggio a Massimiliano. E che fai allora? Capa, no, già ho fatto già. Capa Brioscia, ascolta, oh sì, ti volevo chiedere, quindi c'è uno che si chiama anche Francesco, già lo conosci anche tu, ma... Sì, ho voglia, lo conosco da ragazzino, a Francesco, sì, diciamo che lui fa gli scavi, io gli faccio la posa, poi se ce n'è in più a scavare facciamo, capite, gli accordi purtroppo erano così. Ecco, ho capito. Ho messo una foto l'altro giorno su Facebook. Va bene, si va da persona. Va. Io ti dirò la verità, io lo conosco tantissimi anni, Francesco è con me tanto di cappello, quindi non ci conosciamo da anni e anni e anni. Infatti quando l'ho visto gli ho detto, cosa ci fai tu? No, se ne fai tu. Fratello ci vediamo qualcuno, no, ormai. Detto, sono già entrato con Massimiliano, se mi chiama più prima, stiamo cercando gente, mi ha detto, ci credo, stavo cercando qualcuno con la caratturista, quindi. Però ormai mi ho preso l'impegno con una persona e sono una persona un po' seria io su queste cose qua, quindi non posso mollarla. Anche io conosco una via, ho lavorato anche quando era conto suo, ho lavorato con loro, ho fatto un gol. Conosco più di 30 anni, il padre, la madre, le sorelle, l'altro fratello, tutte cose. Io conosco tutti io, tu pensa che io quando ho iniziato lì a Bagaglino, poi è venuto il padre, ma molto, molto più, diciamo, dopo, più tardi di noi, dai. No, comunque è bravissima persona, gentile, in gamba, sempre disponibile, proprio, sai, come lui, va, diciamo così. Sì. Tu infatti pensa che non è che ci appelle, sai com'è la gente, ma è toccato di io, non ci riesco a parlare molto più cinquante, parla con me allora. infatti. Campagnata, avanti, bombolo. Ah, tu. Ehi, ha già piccato lo microfono. Scusate. Ma non preoccupati, ti ho rilanciato, vedi. Scusate, lui tu. No, ero sdraiato, ero. Comunque hai visto la mia casetta? È bellina. In Canada, sì, va bene, la voglia. La nostra, dai. E cosa? Meglio di nulla, eh? Vabbè, si può fare meglio, altro. Si può sempre fare meglio. Papà, io ti dico una, sì, ti dico una cosa però, questa casa la sai perché mi piace, perché c'è caldo, soprattutto qua a me, c'è caldo, io di solito passo la giornata qua perché c'è caldo, o una cosa o l'altra, chi sia rovaracchino, chi sia facendo altro, io sto bene. Ma è problema d'estate lì, che ti scegliere tra i mesi. Apriamo l'uccennaio e buoniamo il ventilatore, che cosa devo fare? Luba, ti muovo dentro un viso, vai, otti. È vero, ma vabbè, io lo stesso, a me piace la casa, diciamo la casa calda, la mia addirittura, siccome accendo la stufa la sera, rimane calda fino alle 9 mattina, sino alle 11, mezzogiorno, va. Poi vabbè, si apre la finestra, però rimane calda nel periodo dell'inverno. Poi mi fa freddo casa dalle 2 del pomeriggio, quindi devo di nuovo riaccenderla. Ah, guarda, io la verità, qui su, nel piano di su, sono dalle, dove sono state, forse le 3:30, l'ho accesa. Poi da stamattina l'ho accesa dalle 11, ho acceso quella di giù. Lascio la porta aperta, non si butta io sulla mano di gosse, non si porta al caldo, ho 24 gradi dentro casa. Quando è così. L'importante è condensarla bene, perché poi inoltre che la scalda, se poi c'è dispersione. Io adesso quest'estate mi devo rifare il tetto qua, questo non ce l'ho commentato perché questa è una casa che l'aveva fatto mio padre. Quindi l'ha gettata, senza cartone di saluto, da buccio di bivoli, ma qui c'era un punto d'appoggio, non hai capito. Però diciamo che io l'ho ricostruita come casa, va bene, quello sotto tetto. Però la parte diciamo bassa è 1,80 m, non è che sia piccola, bassa bassa, ecco. Buonasera. Sarà buona, bip. C'è il clac, sono io da un po' di tempo a questa parte. Oh, ciao clac. Quindi ti stavo dicendo, sì, la parte bassa 1,80, la parte alta 2,60. Non è commentata, però diciamo che qua ci sono le camere, la cucina ce l'ho giù. Va bene, va bene. Anche io avevo dato a fare il tetto dalla parte delle camere, delle camerette, dai, perché lo voglio commentare anche per loro, perché io faccio la sala, avevo fatto, più che dalla commentazione, avevo fatto una gettata di circa 7 cm e di, aiutami a dirlo, di lecca. Ho capito, sì. Quindi impastato e sfera di lecca. Anche quello fa commentazione, non è mai come i pannelli, però quello c'era al momento e quello abbiamo messo. Avanti, grazie. Ehi, riprendi Massimiliano, adesso ho entrato adesso la porta del cane che mi metto in sesto. Già sono qua, arrivo subito. Ehi, è positivo, vabbè. No, io sai cosa voglio mettere, sì, voglio mettere quel poliziolo, quello, sai quello che c'ha la guaina già, dai, che devi saldare la guaina e basta. E poi le rimetto le tegole sopra, perché qua d'inverno c'è freddo, se non tengo la tuffa accesa, ed estate se non c'è il condizionatore non ci dorme qua dentro, capito? Invece nella camera di mia figlia quello l'avevo già fatto, l'avevo già commentato. Avevo messo, aiutami a dire quella vera, il pollice, impastato col poliziotto, ho capito. Ah, sì. Va bene, però, vabbè, tu ci metti le tegole, quindi già va bene. Solitamente fanno così, mettono quei pannelli, tipo quelli che sono partiti giù per i punti, meccanicamente con i tasselli, dai, diciamo, quelli che messi noi invece erano tutti incollati con la schiuma a ballare, però la tromba d'aria ne ha tracciato te o quant'altro. Ho capito, no, ma a me i balloni così non mi piacciono. Tanto ce li ho le tegole, quelle come le foglie, una, le recupero tutte, metto i pannelli, le rimetto le tegole sopra e le rifaccio tutto il cordolo, ci ho fatto bene, volta non la fai più, ti dura una vita o così così. D'estate c'hai, non dico che c'hai freschissima, però c'è fresco, ecco, non c'è questo grande caldo. Per l'inverno c'è caldo perché è commentato, capito? Va bene, dai, avanti, bambolo. Cappa, no, io di solito, cavolo, sono sempre qua perché sto bene qua. Perché c'è scendo, cioè giù c'è più freddo, c'è. Capito Massimiliano? Mamma mia. Io ho capito, va. Vabbè, qua. Bugati due anni, boh. Ehi, Massimiliano, ci abbattini mi sono messo, dai. Assolutamente, Antonio. E mo tu rendi, perché io... Cosa vai? Anche il canarino va in chifi. Già stai uscendo bene, Antonio, già stai uscendo bene. Tino, sto usando l'MB, il Tane più 3 da tavolo col Galaxy, meglio dell'MB più 5. Va bene, va bene. Certo, non è la tua classica modulazione, è quella standard, però va bene. Ehi, non ce n'è più standard, adesso c'è l'UPIM, no, la standard è finita. Questa è la mia modulazione, Tino. No, già da tempo il modulo così. Va bene lo stesso. La standard già è spenta, rimarrà spenta. Ogni tanto lo accendiamo, ma questa è la mia radio primaria. Avanti, Massimiliano. Sì, fino a quando la cambi. Vai, Massimiliano. Ancora facciamo una colletta, Tino, lo portiamo via tutto, lo lasciamo solo il Galaxy. Così ormai non si lamenta più. Ma va, ma già. Ehi, piacere mi vedi. No, Tino, io non mi lamento mai, sono gli altri che si lamentano, io non mi lamento sempre ben poco. No, beh, mi è rimasto solo quello lì, però mi piace il Galaxy, io l'ho avuto e mi sono ricreduto che è una bella radio, dai, completa, per la 27 va bene, un baracchino base, anche se ne ho altri, ma non sono sicuramente come questo. E perciò modulo con questo, 10 watt, modulati quasi 15, va bene. Ottimo per la truppa. Avanti, mister Bombolo. Capo, no, già va bene già quel Galaxy lì. E io, vabbè, poi già. Allora, è bello, è un enorme. Però il DAC è bello, cavolo. Ehi, ma il DAC non esce come questo, ho già fatto le prove. Non esce come questo, ottima radio, c'è una bellissima ricezione, anche in trasmissione, per carità, va bene, completo come questo, canali ne ha di meno, c'è anche quello, la M, l'USB e l'SB, però come estetica sicuramente è più bello, ma non esce come questo, mi piace più questa la modulazione. Sì, ne avevo due di 140, uno l'ho venduto, quindi mi è rimasto solo uno e basta. Non è che ci siano molti giochi da fare, io quello che avevo detto ho fatto, perciò ci abbiamo il baracchino e moduliamo col baracchino, così è Massimino Bulldozer. Ehi, positivo, dai. A me non mi ha detto niente, però la luce dello smitter. Adesso è bella, Massimiliano, ma prima c'erano cioè, i buliani, ma manco i piccitti, perché praticamente si vedeva solo, l'hai vista, no? La parte dopo il più, i segnali bassi non li vedevi, capito? Andavo intuito, ma giusto con gli occhiali vicino vedevo la lancetta, però no, non capivo dove era il numero, dai. Adesso è bello, adesso sì. L'hai provato, funziona bene? No, non ho provato nulla, zero completamente, anzi, mi promette voi che lo collego. Ehi, va bene. Scendo bene Massimiliano, noti? Sì, ma io ho detto, va bene. Sto usando il capo. Sì, beh, è inconfondibile la modulazione, la riconoscerei a un miglio di distanza. Il tocco di quel microfono è mitico, niente da fare, lo sai, no? Anche lo stacco della portante è diverso da qualsiasi altro tipo di microfono, la timbrica è molto corposa, bella... No, sto scendo bene, mi piace la modulazione. Non è molto alta di radio, va bene, bella compatta. Avanti, bombolo. Già, va bene, scusate, devo lontanare due secondi. Cappa, mi pare che me ne prendo uno e me l'attacco nell'87. Mi hanno detto che si può fare la modifica. Del 60, tu. Eia! Eia, si può fare sì, si può fare sì. Io avevo un presidente Lincoln, Massimiliano Archimede mi aveva fatto il connettore, usavo il 60 però con le batterie, perché chiaramente l'alimentazione non c'era, capito? Uno spezzone mi aveva fatto. E usavo l'MC60 con c'è la sede delle batterie dentro, avevo messo due pile. Funzionava bene, funzionava bene. La modulazione certo non era come il K, però funzionava bene, bella amplificata, bella chiara. L'ho ripreso, Sì, io. Mi ascolti così? Alla grande, lo sto facendo col difetto del microfono? No, negativo, appena acceso, ho visto che è tutta la grande qua. Aspetta, mi alzo un po' il parlascolto. Ola, oh, troppo. Ola, 1, 2, 3, prova. Bella radio, funziona bene, Massimi. Allora, l'eco com'era qua? Cambio. Va bene anche l'eco, sì, secondo, già lo sai, secondo da sinistra. No, l'eco il terzo, non il secondo. Ah, il secondo è il Minky Gig. Vabbè, ma lo lasciamo chiuso così. Allora, questo tutto in alto, ok. Allora, come te vedi bene lo Smith là? Se te l'ho detto, io quando l'ho provata, minchia, gli ho detto, ma Ita, boh. O si è spostata la lampadina o si è fulminata, che cos'era Massimiliano, spostata era? No, c'era solo una lampadina messa giù in fondo dove c'era il più 30, là. Quindi illuminava solo la parte, diciamo, rossa. Prima era al centro, sicuramente adesso sarà andata in fondo, ma comunque io lo so cosa ho fatto, ho preso un led, gli ho messo una resistenza, gli ho aggiunto due fili da quel malloppo che c'è in me, da lì ho preso un altro cavo, gliel'ho portato a fianco allo smitterino, gli ho messo un led di quelli grandi, bianco ghiaccio. Come questa non si vede, io c'ho il Galaxy così lo stesso. Così, me l'hanno fatta così e non le ho toccate, veramente belle perché sono bianche, si vede bene, di solito la luce del Galaxy c'ha quelle lampadinette spente che devi avvicinarti per vedere il segnale, qua si vede bene, è l'unica soluzione qua, per vedere bene lo smitter ci vogliono led bianchi e non sbagli. Hola, 1, 2, 3, vedi come vado, hola, lo smitter. Va bene, vai, bombolo! Scappa, no, esce bene Massimiliano, che c'ha parecchio, a voglia. No, claro, non l'ho fatto perché ho mollato prima io. Ah, hai mollato prima tu, gappa. Cosa hai detto, Anto? Ho detto che chi c'ha parecchio esce bene. Io, davvero che esce bene, ho provato tutte le radio di Massimiliano, sono radio eccezionali. Veramente belle perché sono state fatte sicuramente da gente competente, quindi lui ha la passione di queste radio e quelle che ha sono veramente a posto. La verità, mi ha un po' sgridato Massimiliano. E perché, Bombo? Perché sono un po' disordinato, mi ha detto. A casa? Eia, sono un pochino disordinato, mi ha detto. Ti metto un po' a posto. No, lì devo venire io, Antonio, non ne sai mettere a posto tu. Vabbè, no, a fine io già mi arrangio, poi trovo la soluzione. Mi aghidda me. Sì, lo so da fare, te lo fai bellino. Ecco, una cosa bella da vedere, Antonio. Perché ce l'hai nella camera da letto, quindi il mobile potrebbe anche andare bene, però te lo fai più carino, cioè no, tutti questi fili volanti, cioè fermali con delle fascettine, tutti da una parte, fatto carino, va anche da vedere. Cazzo, mi ha tagliato tutto l'udito quella vite, cazzo, mi ha messo due vite a farmi la tappa, è uscito la tappa del mobile. Se te lo fai più carino, Anto, esce più bellina la cosa, no? Puoi metterci anche una fila di led bianchi in modo che ti illumina tutto, cioè fai una cosa carina da vedere. Invece no, vai tutto lampado, usi spezzoni, vedi i fili, tutto buttato così. Ah, di chi si sia, Anto, tu? Massimiliano come me, mi Anto. Io non li voglio vedere fili in terra, fili garati, no. Però sono stato 3 giorni perché ho smontato la scrivania che avevo. niente, niente. Ho rimesso la base che c'era prima, mi sono rimesso tutte le radio in ordine e non si vede un cavo, niente, tutto bello ordinato intorno. Non mi piace a me la roba a bindurizzoni, tutto affascettato, tutto fatto bene. È un ordine, hai capito Antonio? È ordine. Poi anche la sicurezza, perché magari stacchi un filo così, non te ne accorgi, cazzo, te ne fare da loretto, fai un filo, ma sarebbe disaggata e fasci tutto. Capito? Sempre ordinato Antonio, e vedrai che non sbagli. No, fili in mezzo ai piedi non ce ne sono, perché li sono tutti nel mobile. Però è un po' carino, mi servono, devo comprarmi le fascette, le devo fascettare, fare. È un po' così, ma... cosa vuoi fare? Mi chiede a consentemi. Vorrà andare a ragionare a Massimiliano. Beh, certo, dillo, picchialo, Sara. C'ha ragione, scusa. Se tu poi li metti, guardami, Antu, ti metti un bel commutatore, te lo metti anche con due fittine nel mobile, nel lato, in basso dove non si vede, ti fai gli ispezioni che vanno alla radio e non devi stare lì a staccare, fare, attaccare lì, attaccare là. Ti usi una radio da una parte e gli altri dall'altra. Col commutatore vai dove vuoi e sei a posto, e fai una cosa carina anche da vedere, no? Capa, però di una cosa mi devi dare merito. Quando hai attaccato il tuo rosmetro, come erano le stazionarie? Quella l'ho fatta bene, quella mi è uscita bene. Ma tu lì hai sbagliato, tu quella radio, quell'antenna la devi sollevare con un paio di metri, non c'è bisogno di tirantarla ancora, con due metri si è a posto e vedrai come esci alla grande. Sì, uno e uno, va bene. Ah, ma Kusugisu ha già zeccato alla prima, l'ho messa qua dentro prima di metterla su. Ha giubilato piano, l'ho bloccata lì, finito. Vabbè, tanto comunque se c'è il mobile che lo puoi far diventare più ordinato, più insomma, presentabile eccetera, fallo. Io per anni nell'altra casa più piccola di questa avevo una scrivania dove avevo tutta la roba, insomma, quella poca che ho potuto mettere ce l'avevo in camera di mia figlia, però era ordinatissimo, no? Non c'era niente da dire. Poi quando sono sceso qua, che ho la stanza in più, mi sono fatto la camera mia con la vera sala radio ed è sempre ordinata e precisa, capito? Anche Massimiliano, vedi, nel suo piccolo c'è una bella scrivania, tutto ordinato, e va bene così a tutti. Ma anche quando c'avevo l'altro di scrivania che mi ho fatta io, quella era ordinata lo stesso, questa è più carina perché è più grande, metti l'alimentatore sotto e non vedi niente, però anche lì non vedevi niente lo stesso, anche se era un pochino più piccola, però era ordinata lo stesso. No, non mi piace da me, che vidi tutti volanti così, no, non mi piace, la verità. E ancora mi devo sistemare qua la corrente. Perché adesso non ci ho presa qua vicino, quindi devo stare con questo filo in terra, questo pezzo di prolunga. Però io non so cosa faccio, io questa prolunga ne lavoro, dai, no, che mi metto una bella presa dietro la scrivania e così sono più a posto, no? Ok. Beh certo, però lì quella è una bella scrivania, una bella base, perché hai i ripiani laterali, hai il ripiano di sotto e quindi puoi fare tutto quello che vuoi, capito? Certamente, certo che sì. Avanti, bombolo. Eia, stavo guardando, stavo. Ah, guardando stavi, vabbè. Ascolta, Clava, il microfono dove te lo faceva te il problema? Sul vicino dove parli oppure proprio dove entra nella radio? No, dove entra nella radio. Ok, là. Boh, io l'ho entrato, sembra che sia a posto. Però l'ho tutto soffiato, pulito. Capa, a quanti chilometri siamo dai Noga a casa tua? Io penso che ci saranno almeno, non lo so, una decina pure, o 15 pure. Non è buccia di giocano, stavo guardando, stavo. Ma no, quanto ci sarà da dove abita più o meno Antonio a casa? Una quindicina. Una quindicina di cosa? Di chilometri. Ma ci intendi, ma che sono... 19 km a Porto Toro c'è una quindicina. Andrà vini. Da casa di Antonio dove sei tu saranno 7-8 km. Ha ragione, eh. 7-8 km dici? Beh, Massimiliano, cavolo. Sono da casa mia a Porto Torre sono 22 km, ma perché io sono fuori praticamente città. All'ingresso di Porto Torre io ho sempre segnato, ho sempre visto, ne conta 22 km, 23. Quindi sono bemmi, cioè da casa tua a Porto Torre sono quanti chilometri, sono 7 km. No, da casa mia a Porto Torre sono 15 km. E 12 da qui a casa di mia suocera. E 12 da casa tua a casa di tua suocera. Quindi, vedi bene, devi salire molto più in alto. Quindi ho detto bene io. Perciò a casa di Antonio saranno 8 km, da te a casa di Antonio saranno 8 km. Vabbè, ma poi così in linea d'aria non ci li devi contare in linea d'aria, quindi secondo me c'è anche di meno di 8 in linea d'aria. Linea d'aria sì, molto meno. Ma poi fai in fretta, Massimiliano, già sei pratico col telefonino. Metti su Google Map e guardi la distanza che c'è tra te e lui. Digiti la via dove abita lui o il riferimento dove abita lui. A dove sei tu, li punti in marciaculetta e ti dà la distanza. Ho capito, però Cla, il problema è che te lo dà via terra quello, capito, non via aria o aerea come ti chiama, capito? E vabbè, comunque fai questi 7-8 km, là. Non è buccia di giocami da dove abiti tu, a dove abito io. Poi dove Antonio è proprio in un fosso, Vabbè, anch'io rispetto a Sassari sono molto basso, però c'è una bella piana qua. No, Massimiliano, la piana di dove sei tu, della spunta, se non ce n'è per nessuno. Già lo sai che c'è lì vicino a te, e opera in tutto il mondo. Io ho visto segnali lì, allucinanti, Massimiliano. Li punti e li punti, anche se è basso, ha una piana molto aperta e poi molto vicino al mare, dove ha una ricezione favolosa. Si conferma. Aspetta che è arrivata, che mi hanno fatto le pizze, arriva? Sì, a capa. Non è vicino, no, da dove siamo noi. Cioè, hai visto però canto d'arrivo? Io già l'ho visto, a voi l'ho visto. Invece io come ti sto arrivando lì? Un passaggio. Vabbè, un po', 1, 2, 3. 9, sì. Vedi, no, vedi che è giusto. Scappa, vabbè. Tu hai qualche vattino in più, dai. Tu c'è poca roba, c'è. Vabbè di bella, va, vabbè di bella, che... Ui, vabbè Luca, buonasera. Sì, vecchi, vabbè. Ciao, Luca, lì è. Questa sono travasa di profumi, aspetta. Sì, travasa. Scappa, beh, signore, dai, io... Vado a farmi una bella docetta, se no è occhio, un casino. Ok. Aspetta, Luca, bene sta andando questa radio? Sì, perfetta. Ok, là, questo è il tornado. Mi ho tolto un attimino al 2009 perché devo provare questa radio, là. Ok, gli ho fatto un lavoretto, è perfetto, là. Capa, ti stavo dicendo, è tra me e Luca, che differenza c'è? Prova, lui lo stavo guardando. Ciò si va, Dio, dai, ciò si va. Scusate, sono rientrato, ciao Luca. Sono il manager del cagnolino, che... Beh, Luca è sul 9.10, lo stesso, 9.15, dai. Ok, va bene, Tino, dai, allora riprendi tu, io sto andando, lascio acceso, ma vado a farmi la doccia, se no è un casino, va. Sentiamo dopo al limite, ok? Vai, Tino, riprendi e fai girare. Andiamo, andiamo a controllo, guarda un pochino, io, visto che ne stai approfittando. Prova. Guarda un po', 1, 2, 3. Guarda la cipolla. Dove sul più qua mi segna su questa radio. Se già va bene allora. Kappa, che ha voglia. Aspetta, senta. Passo un pochettino un po' all'ascolta qui, perché mi sembra che stava innescando, vero? Oh, raga. Vai qua. Dai, riprendo io che mi hanno chiamato a cena, sono 9:10. Se ci siete, a dopo, altrimenti ritenetevi salutati. Ciao Massimo. ciao Dino, ciao Antonio e chiunque fosse in ascolto, ok? Ciao. Ciao, ciao, Cla, ci sentiamo. E anche io mi stacco che vado a farmi una doccia, là. Poi ti mando un messaggio a Motorzappa per quella cosa là, Cla. Va bene, ci aggiorniamo dopo. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Va bene, ciao a entrambi, dai, riprendi tu. Ciao, ciao, dai, ci sentiamo. Ciao, ciao. Tu, Gabriele. Cazzo, tipo come mi parlo profumo in terra, Tino. Aspetta, travaserò profumo. Con profumo è battagliente. Visto che non mi lavo uso profumo, no? E andate, dai, Bianco, per me, dai, ci sentiamo, ok? Bianco, perché? Perché rientri o chiudi? Chiudo per un po', chiudo perché devo fare cosa, devo fare. Devo scendere un attimino giù per vedere, devo andare a QTH piccolo. Magari c'è, riprendo dopo, ok? Ma era giusto per sapere se... se rientra con me, ho capito. Già rientro dopo. Andare. Scappa. Profumata ti sei, Luca. Cosa? Ti sei profumata. No, ancora non, solo la patata ci manca profumata. No, è che mi sono preso... Allora, questo qua, questi due vanno giù. La 25. Stavo dicendo, no, ho preso due ricariche da 50, no? Di cui, devo dirvi, ce ne sono quelli da 30, capito? E così quando ce l'ho, lo devo tirare una siringa, capito, con l'ago, per travasarlo. Ah, ho capito, allora. Aspetta, 2 secondi che devo rispondere a un messaggio. Va bene, sono qua, vai. Tieni che fischio, avanti. Com'è questa radio, Tino? Ti piace? Sì, è un po' più... come te lo posso definire? Più chiara dell'altra, più fina. La sua sono la Stati, che era quello di Gianni. Prova, hola. E l'altro di prima era la MB più 4. L'altra è più corposa, più forte come radio, dai. Questa è un pochino più... fine. Ho capito, più meglio, dai, o più migliore. Sì, questa per me è migliore. Ma chi te non l'hai più trattato, Lu? Quello modificato. Eia! Me ne è passata la fantasia. Come la fantasia? La fantasia me ne è passata. Ah, perché nessuno lo vuole. No, non è che... Allora, il discorso non è che io lo trovo perché ho bisogno di soldi o qualcosa. Lo sto dando perché non mi riporto nulla, appunto. Poi, se lo vuoi, a quel prezzo, se no si può pure praticare in Kiwi. Guarda, se mi dico, ti do 100 euro, capisco come torno a fuoco. No, vabbè, lasci stare lì e basta, ogni tanto lo accende e fa brutto. Io sono capace di farlo, non è di buon gas, sai, un poco d'alcol, poco fuoco. Però, se tu non lo dopo. Chiappa, quello lì, sì, esatto. Se, cioè, non lo dare, te lo dai in giugno, tanto entri, fai a burrotto e te lo dai in chive, però manca cosa che in chive. Fa, così va, pure un singolo problema. Ma non è giusto la gente, può troppo la roba gratis. E non sapete ne chi si apparecchi gocciani. Cioè, l'hai pagato, No, ma niente, chi si vende dei cosi quanto buoni niente, però quando devi vendi tu non andava. E così funziona. Ma io sono già rimane lì. Non me la giù bisogno di denaro. Non è che lo si può venire a chi ha giù bisogno, no. Assolutamente. Sto trovando perché non ne faccio niente. Se non vuole che si rovinasse, comunque già rimane lì, se lo vogliono, se capita che mai uomo lo sta cercando, glielo propongo, se lo vuole bene ce lo lascia. Appunto per quello, ma niente, vuol sempre la roba gratis. Io te l'appoggio. Oi, buon pugno. Io te la spingo. Grazie Caduccio, tu sì che mi cambi nevi, anzi nervo. Ciao, sono sul cuore del caffè. Un pochino per di bella. Sì, chi è che vuole un bacino? Chi è che lo vuole? Sono pronto a darglielo. 200 euro. Veloce però mi. Vieni a casa se lo prende, cazzo. Con la macchina, col treno, quello che è col bus. C'è una scrivania col barchino, cazzo. tutto inserito assieme, 221 statuto calari, quindi tutto assieme, completo del metatore, si porta anche la scrivania. E cosa vai? Visto un errore suo, la cosa vecchia mi. Cazzo le base, l'ho fatto io, cazzo, una scrivania vecchia, modificata, ci ho messo un bel baracchino, 23 calari. Come dirai, padre? A fianco, ehi, cazzo!